Quando domenica scorsa è stato reso noto che Alessandra Mussolini era stata estromessa dalla contesa elettorale nel Lazio e sono cominciate a girare le prime voci sulla responsabilità in merito del presidente di quella regione, il Corriere ha pubblicato una vignetta piuttosto azzeccata. L'immagine del celebre nonno della esclusa, in uniforme stivali, che dalla sua nuvoletta ultraterrena guardava in basso e chiedeva con aria incazzatissima: ma chi è questo storace? In effetti, per uno come lui, come Benito Mussolini, che aveva ben saldo il senso della solidarietà familiare, l'idea che un qualsiasi potentato locale, quello che all'epoca si sarebbe definito un gerarca, si potesse permettere un simile sgarbo nei confronti di una sua propria consanguinea sarebbe apparsa perlomeno bizzarra. A meno, naturalmente, che non ci fosse stata a giustificarla qualche solida ragione di Stato o di partito. Il Duce era in sostanza un politico puro e non ha mai permesso in vita sua che le necessità della politica fossero soverchiate da considerazioni di natura privata. Lo dimostra, tanto per fare un esempio, la sua gestione di quel disgraziatissimo affare che fu il caso Ciano. Sapeva fin troppo bene che la lotta per il potere non è un pranzo di gala e il fatto che tra i suoi eredi potessero allignare agguati e imboscate reciproche non lo avrebbe meravigliato più di tanto. Quello che lo avrebbe meravigliato davvero, suppongo, sarebbe stata l'idea che sua nipote reagisse all'oltraggio facendo lo sciopero della fame. A Mussolini, che amava tenersi informato sulle cose del mondo, Gandhi non era del tutto ignoto. Anzi, è probabile che ne apprezzasse la capacità di creare fastidio all'impero britannico. Tuttavia non si può certo dire che le tecniche della non violenza facessero parte del patrimonio genetico suo e del regime. Se c'è un elemento, anzi, che conferisce unità alle molteplici svolte della sua carriera, consiste proprio nell'esaltazione delle virtù marziali, nel culto della forza, nella fiducia dell'uso delle armi. Non per niente aveva confidato per arrivare al governo più nell'applicazione intensiva del manganello che nella costruzione del consenso. E si trovò negli ultimi giorni ad affidare le poche residue speranze di sopravvivenza al raggio della morte e simili fantasie tecnologico-militari. Se c'è una cosa che con il fascismo ha decisamente poco a che fare, un'antitesi quasi del modello antropologico e culturale che quel sistema ideologico ebbe l'ambizione di incarnare, e va identificato nel pacifismo, nella pretesa di imporre le proprie ragioni senza nuocere fisicamente agli avversari. Lo sciopero della fame, che di questa pretesa rappresenta una delle applicazioni più radicali, è decisamente incompatibile con l'orbace. Ora, io non so se l'Alessandra in questione sia o si consideri davvero fascista. O anzi, la mezza impressione è che, pur se non le manca la grinta, non si tratti del tipo di grinta caratteristico di quella trucida identità. Ma è poco ma sicuro, ahimè, che la ragazza ha fatto carriera sfruttando il suo cognome e che ha lasciato Alleanza Nazionale quando Fini si è permesso di definire il fascismo una forma di male assoluto. Quanto al tipo di compagnia a cui si è aggregata dopo la rottura, non farebbe proprio pensare a un'improvvisa conversione a quei principi liberali che al nonno sembravano, giusta la lezione di Giovanni Gentile, decisamente fuori dalla storia. Eppure guardatela. Non ha fatto altro in questi giorni che parlare di democrazia e di quanto sia deplorevole negare a qualcuno il giudizio dell'urna. E non si è limitata ai comunicati stampa, Non si è mossa per una settimana dal suo camper come una militante alternativa degli anni 70 e finché non è arrivata la sentenza del TAR, mangiare non ha mangiato di certo. Certo, non era mica come Gandhi che digiunava oltranza e lo dimostrava con l'aspetto emaciato. Il suo era, come ormai usa, un digiuno alla pannella, un digiuno temperato dall'attenta ponderazione di un certo numero di cappuccini ben zuccherati e di bottiglioni d'acqua minerale, ma questo ormai siamo arrivati. E in un paese dove non ci si vergogna di praticare lo sciopero della fame a votazione, una pratica non molto dissimile dal punto di vista del singolo militante dell'astinenza del cibo tra un pasto e l'altro, quell'impegno è sembrato a molti più convincente delle battutacce degli exodavi su quanto bene potesse farle un'energica cura dimagrante. È stata ed è l'Alessandra in contraddizione con i propri principi? Sì, forse sì, ma cosa volete che importi? Su contraddizioni di questo genere si regge ormai l'intero Luna Park mediatico della politica nazionale. La nipote del duce che digiuna in difesa della democrazia fa da perfetto pandan ai dirigenti della sinistra che si sdilinquiscono per il mercato. Non esiste a cercarlo un leader che si senta in alcun modo impegnato dal proprio ruolo o dalla tradizione ideologica a cui dichiara d'appartenere, ove per caso ce ne sia una. Tutti dicono tutto il contrario di tutto nella ricerca disperata dell'effetto immediato di fronte ai microfoni e alle telecamere. L'Italia è fatta così, è il paese in cui si può passare tra il plauso delle masse da un importante ruolo direttivo in Fiat alla direzione dell'unità, da lotta continua al movimento per la vita, dalla segreteria del Partito Radicale alla guida degli eredi della Democrazia Cristiana. È l'eterna patria delle convergenze parallele. La nazione dove il capo del governo in visita alla Guardia di Finanza esorta i contribuenti a non pagare le tasse, in cui i cardinali raccomandano di non andare a votare, i ministri azzannano i giudici, i fautori della secessione e quelli dell'unità nazionale siedono nello stesso governo e si discetta sull'opportunità di organizzare le elezioni primarie a patto che si presenti un candidato solo. La povera Mussolini, in materia, è poco più che una dilettante. L'incoerenza di cui ha dato prova al confronto è stata un'incoerenza gentile, quasi patetica. Presto tardi vedrete che la etichetteranno come esempio vivente di dialettica della storia in senso hegeliano e si libereranno definitivamente di lei facendone una specie di icona bipartisan della crisi delle ideologie. Per fortuna che siamo in fase di par condicio e mi ha risparmiato l'obbligo di confidarvi il mio parere su questa interessante eventualità. Che è il senso chiave?